24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. Sono le 6:33 minuti. Buongiorno cari ascoltatori. Dai che è venerdì. Dai che è venerdì, alpino Peter Bescapè. Dai che è venerdì. Saluto. Qua si alzano le saracinesche così, basta dire dai che è venerdì. Saluto anche Elisabetta Fusconi in redazione. Il caffè volentieri a tutti quanti. Ovviamente salutiamo come sempre Nicole Minetti, che credo sia a 11 giorni dal vitalizio, se rimane in piedi la Regione Lombardia, ma pare proprio di sì. Voglio salutare un graditissimo ritorno, Alessio Vinci, buongiorno e ben svegliato. Buongiorno, il venerdì per me è diciamo l'inizio dell'inizio, caro mio, perché domenica si va in onda, quindi per me il venerdì è un giorno quasi di grandissimo lavoro. Certo, domenica si va in onda, domenica live, la seconda puntata, cos'è, dalle 2 alle... poi andate al trance. Alle 7, mannaggia. A proposito, te l'ha offerto almeno Nicole Minetti il caffè? Visto no, che qua... non me l'ha offerto il caffè, gliel'abbiamo offerto noi. Ma come? Qua lo offre a tutti i giorni. Com'è possibile? Nicole Minetti, che è stata un po' la protagonista, possiamo dire, della prima puntata. Ma diciamo, la protagonista no, forse è stata quella più discussa, ma insomma abbiamo avuto tantissimi protagonisti in 5 sì. ore di televisione, come tu sai, si fanno tante cose, quindi no, si certo. intervista anche Nicole Minetti. Certo. Senti, qua per il momento sei da solo, sei l'unico avventore del bar, perché c'è Matteo Salvini, adesso proviamo a richiamarlo, magari facciamo squillare in diretta, così lo sbrandiamo proprio, perché gli suona il cellulare, ma mi sa che, come dire... Ha avuto una notte lunga. Mi sa che sono momenti un po' difficili alla Regione Lombardia, come dire, eh? È sì, un po' così. Direi di sì. Però io, prima di parlare di questo, vorrei fare sentire l'audio di un video che Alessio forse avrei visto anche tu, ma magari domenica ne parlerete anche, adesso poi ce lo dirai, no? Questo video che ha già fatto il giro d'Italia, di questo bambino conteso dai genitori e che è stato affidato al padre. E che è stato prelevato con modi, come definirli? Intanto li possiamo sentire in audio, qualcuno il video l'ha visto. Aiutami, zia, come faccio? Si è fermo un tubo! Ma dove siamo, nella Gestapo? Che cosa sta facendo? Ecco, le urla sono della zia. Questo bambino è stato prelevato dalla polizia a scuola perché il giudice ha affidato la patria potestà, ha fatto l'affidamento esclusivo al padre, è stata tolta l'affidamento alla madre, e l'hanno prelevato così mentre la zia urlava lasciatelo. Alessio, si possono fare tante considerazioni intanto su questo video, la tua da padre, la tua da cittadino che hai visto una scena del genere. È vero che ci sono tante situazioni di figli contesi, ma che cosa ci suscita un video del genere? Guarda Alessandro, ci sono, come giustamente tu stai dicendo, tantissime considerazioni da fare quando si vede un video come questo. Il problema dei figli contesi, come lo sai, è un problema molto, molto importante e molto sentito da tantissimi genitori in questo paese e non soltanto. Però la prima considerazione da fare, secondo me, che scene di questo tipo in Italia non dovrebbero essere viste. E dobbiamo forse ringraziare il fatto che ci sia stata una zia che le abbia riprese. Non tanto perché la zia e la madre hanno ragione e il padre ha torto, ma perché se non ci fosse stato questo video oggi noi non parleremmo di questo problema. Sì, certo, è vero. E quindi questa è innanzitutto la prima considerazione da fare. Che io non so chi ha ragione, non so chi ha torto, ogni storia ha naturalmente diverse sfaccettature, diverse ragioni, eccetera, eccetera. Dopodiché in un paese come il nostro non bisognerebbe vedere video di questo tipo, la polizia è un gruppo di professionisti che dovrebbe essere capace di prelevare un bambino, anche se diciamo con il sostegno di una sentenza di un giudice, senza trascinarlo come se fosse un criminale qualunque. E anche un criminale qualunque comunque non dovrebbe essere. Ma no, ma certo, ma è stata una scena davvero... C'è da dire che è una storia molto controversa. Il bambino avevano provato più volte ad andare a prelevare la casa della madre, lui si nascondeva, eccetera. Sta di fatto che pare che il capo della polizia Manganelli, almeno così riporta il Secolo XIX, dice che chi ha visto accanto a lui il video ha notato una smorfia di labbra tra il dolore e la rabbia, una smorfia sul viso del capo della polizia Manganelli, che subito ha detto: questa è una cosa che non va bene, dobbiamo subito chiedere scusa e qualcuno pagherà per questa vicenda. Guarda, quel qualcuno pagherà come al solito, poi alla fine poi sai, sì. per, per 2 o 3 giorni se ne parlerà tantissimo, poi naturalmente per far pagare qualcuno ci vuole tempo, ci vogliono i lunghi tempi anche di una burocrazia, perché insomma non ci si può certo accanire nei confronti di una persona se questa cosa succede, dopodiché anche perché non era solo un poliziotto. Io la domanda che mi sono fatto ieri, tra l'altro parlando con colleghi, con amici, anche, sì. Non si parlava d'altro ieri sera a cena, non lo so se tu hai avuto la stessa ma no, esperienza. Ma assolutamente così, perché poi è una cosa che tocca ma tutti. Ma com'è possibile se secondo voi 4-5 poliziotti tutti insieme sono impazziti completamente? Cioè uno può capire se magari un poliziotto può perdere la testa, può capitare, per carità, sì. Invece qui si ha la sensazione che ci fosse quasi un comando ben organizzato, sì, tra virgolette. No, ma devo dire che sarebbe stata una cosa difficile. La situazione evidentemente è sfuggita di mano. Probabilmente erano all'ennesimo tentativo per fare un provvedimento esecutivo che dovevano eseguire perché c'è un ordine del giudice. Un giudice, nel senso che poi alla fine un ordine del giudice va eseguito, ci mancherebbe altro, la legge va rispettata. Dopodiché c'è modo e modo. No, ma è chiaro, nel momento in cui ti rendi conto che la situazione diventa del genere, devi desistere. Insomma, come puoi, col bambino che urlava "mi soffocate", la zia che ovviamente anche con queste urla acuisce ancora un po' la drammaticità dell'evento, ma sono urla tutt'altro che finte. Voglio dire, avete sentito quando dice che siamo nella Gestapo, quando lo trascinano via con questo bambino, con i poliziotti che dicono "chiudi le porte, forza, andiamo via". Cioè sembrava proprio sì, un blitz. Sì, è un blitz, comunque fa molto riflettere, perché insomma anche il fatto che appunto che la zia fosse già organizzata con una telecamera, cioè quello che noi abbiamo visto è l'epilogo di una lunga battaglia naturalmente tra la famiglia, diciamo, della mamma, no? E il papà, che chiaramente ha avuto come epilogo questo scontro con la polizia, sì. Perché ieri appunto nell'intervista della madre che questo è il terzo tentativo, se non sbaglio, no, due volte sono andati in casa, per 2 volte mi si era nascosto sotto il letto, per 2 volte i poliziotti avevano desistito, insomma non è una cosa che è successa così tanto per caso. No, ma infatti Alessio, sono arrivati lì a scuola ben preparati. Ma è davvero sarebbe stato difficile. È stato davvero incredibile. Sentiamo ancora qualche audio di questo drammatico prelievo di un bambino di 10 anni. Insomma, davvero colpisce. Io ho conosciuto anche tante persone, Alessio, questi da ieri a oggi, che mi hanno detto non ho neanche avuto il coraggio di vederlo, perché magari mamme, magari persone che hanno un po' una sensibilità, dice non abbiamo avuto nemmeno il coraggio di vederlo, perché quando si trattano così i bambini... Guarda, l'ho visto tante volte, perché naturalmente ne parleremo domenica, l'ho visto tante volte e ogni volta che lo vedo, e anche solo sentirlo, guarda, mi vengono davvero davvero... un video davvero... Che deve fare riflettere davvero, su davvero tanti incredibile. Livelli però Matteo, Matteo, Alessandro, su tanti livelli, perché è chiaro che il video fa riflettere, è scioccante, non dovrebbe succedere, però bisogna anche chiedersi a tutto tondo quello che può essere successo, del perché, della responsabilità dei genitori in generale, perché poi qui a questo punto è facile dare ragione a qualcuno e torto all'altro. Bisogna veramente chiedersi se a volte i genitori non dovrebbero fare un passo indietro veramente, perché per il bene del loro figlio. Ecco, questo è quello. No, che questo sì, sempre. C'è da dire che sono molte poi le situazioni di bambini contesi, ma qui evidentemente anche i genitori si sono fatti una battaglia e si fanno una battaglia da 10 anni. Ecco l'ultima, tu dici perché c'era la zia lì a riprendere? Perché la madre... Guarda, è stata chiamata, eh? No, ma la madre in una delle interviste pare che abbia detto facevamo le ronde vere e proprie, perché questo provvedimento era esecutivo di fatto da luglio, visto esatto, che avevano provato. Esatto. Facevamo le ronde a scuola. Cioè da quando era iniziata la scuola c'era sempre qualcuno, o la madre o la zia, pronto a questa evenienza, cioè a questo rischio, per cercare di scongiurare questo rischio. Tra l'altro ti segnalo, non so se tu poi hai visto ieri a un certo punto, si è sentito durante il video, non so se l'hai fatto sentire anche tu, dove uno dei poliziotti o comunque una delle persone coinvolte in questo blitz dice alla madre, ma guarda, è lei con la telecamera che rende tutto molto più difficile, sì, è lei sì. Che sta aggravando la situazione, perché... Ecco, invece tu dici grazie a quella telecamera, tu dici grazie a quella telecamera. Però la verità, se tu vedi il video dall'inizio, i primissimi istanti di questo video è la telecamera che si avvicina da lontano, cioè il bambino ha cominciato a cercare di liberarsi molto prima che arrivasse la zia con la telecamera. Quindi lui già dall'inizio aveva capito cosa stava succedendo. Ripetiamo, mi pare fosse il terzo tentativo questo. La telecamera ha ripreso soltanto la parte finale di una, diciamo, di una lotta. Di una anche perché pare siano entrati da dietro. Infatti a un certo punto la zia lo dice: hai capito? C'era l'uscita, c'era l'entrata, c'era l'entrata posteriore. Guarda, questo video non è soltanto che una piccolissima parte, ma chiaramente significativa, importante e decisiva, di una lotta che va avanti da anni, chiaramente, dove ognuno è molto preparato. Tra l'altro alla fine del video invece c'è la zia che fa le domande ad una poliziotta, e la zia è chiaramente molto preparata anche dal punto di vista, diciamo, giuridico, fa delle domande molto legale, specifiche su quelli che sono gli atti giudiziari che dovrebbero in teoria adottare, autorizzare i poliziotti a fare quello che hanno fatto, non come l'hanno fatto, ma semplicemente a prelevare. Ricordiamo che i poliziotti in questo caso qui, in maniera sbagliata, lo sottolineiamo 100 volte, ma in maniera sbagliata stavano eseguendo l'ordine di un magistrato, giudice, certo, un giudice di Venezia. Questo non significa che devono farlo nella maniera come l'hanno fatto. Soprattutto però, diciamo, così. Ma così si ritorce contro, a parte che la prima vittima di tutto questo ovviamente è il bambino. Ma poi è chiaro che un episodio del genere si accompagna a mille polemiche, anche le forze dell'ordine ora verranno criticate, i magistrati perché vengono criticati sempre, insomma, anche loro forse. Così è andata, ma tu domenica... Sono i deboli che pagano poi alla fine, guarda, certo. Domenica poi ne parlerai. Caffè, grazie. Ma 5 caffè, veloce! Non lo fare acqua! Eccoci qua, senti Alessio, senti il cellulare che squilla, niente. Sarebbe bellissimo sentire il buongiorno di Matteo Salvini in diretta, no? Questo, niente. Alessio ci ha abbandonato. Siamo con Alessio Vinci, che domenica è pronto per la seconda puntata di Domenica Live. Niente, Matteo Salvini se la dorme, ma d'altronde è uno che si sveglia sempre presto, ma di questi tempi. In Regione Lombardia noi avremo Formigoni ospite alle 8:15. Oh, non molla la cadrega, si potrebbe dire, no? È un combattente. Ti voglio far sentire un audio, anche se è di ieri, dell'altro ieri, quando si è arrabbiato molto per questo assessore Zambetti che è stato arrestato. No, ha detto... Sentite cosa ha detto Formigoni. O è un abbaglio incredibile della magistratura, ma mi sembra proprio di no, oppure Zambetti è uno spergiuro che ha tradito la fiducia di tutti noi, perché nell'ultimo anno io ho fatto giurare 2 volte ai miei assessori di avere la coscienza assolutamente libera. Alessio, che senso ha? Cioè, ho fatto giurare agli assessori di avere la coscienza a posto. Cioè, qua è il Formigoni di CL che viene fuori, perché cioè, chi se ne frega se uno giura di avere la coscienza a posto? Mica siamo in un confessionale. Brutta storia questa della Lombardia. Ma guarda, Matteo, non... Niente, vuoi Matteo Salvini, lo evochi. È anche presto stamattina. No, guarda Alessandro, sì, è vero, è una brutta storia questa della Lombardia, ma io credo che al di là adesso di quello che sta succedendo, se non sbaglio siamo a 14 ormai, no, dei consiglieri indagati. Più o meno, adesso io ho perso il conto. È sicuramente, tra l'altro, quello che ci viene, insomma, la domanda che viene spontanea al di là di tutto quello che è già stato detto, criticato e quant'altro. Comunque la Lombardia, a detta di molti osservatori nazionali e internazionali, è una regione che funziona, però vediamo con un meccanismo completamente marcio a questo punto. Non so io perché, bisogna farsi alcune domande, no, quando poi vengono al pettine queste cose qua. Io sono d'accordo con chi dice che siamo alla svendita della democrazia, cioè quando noi ci rendiamo conto che un consigliere compra voti per 50 euro, siamo veramente al bagarinaggio della politica, siamo veramente a una situazione degradante. Quando si mettono insieme parole quali tangenti, corruzione, faccendieri e quant'altro, e insieme a politica ti rendi conto che sta saltando tutto il banco. Chiediamoci in che paese viviamo, dove nel giro di un mese tra Lazio, azzeramento del Consiglio Comunale in Reggio Calabria per 'Ndrangheta, il Lazio che salta, la Lombardia che appesa un filo, per non parlare delle altre regioni con la Guardia di Finanza che va in giro per consigli comunali e quant'altro. Tutto sì, questo il livello chiede è questo. Che cosa sta succedendo a questo paese, oppure più che chiederci cosa sta succedendo, ci dovremmo chiedere, forse siamo davvero all'inizio della fine, cioè sta davvero crollando tutto qui. No, ma questo sì, infatti pare che circoli questa battuta di Alessandra Mussolini, ha detto: vedo gente in Parlamento che recita novene e dice speriamo non tocchi a me il prossimo, cioè il clima quello da Tangentopoli. Tra l'altro noi alle 8:15 avremo Roberto Formigoni, alle 8:30 sarà il nostro ospite anche il sindaco decaduto di Reggio Calabria, insomma parliamo di questo tema. Sai come nelle nuove intercettazioni il boss si riferiva all'assessore Zambetti? Parlava così, diceva: se sgarra lo crepiamo di palate, così. Cioè, ma pensa che vita anche che deve fare Zambetti, che a un certo punto l'ha chiamato il boss di Africa, gli ha detto: come va il diabete? Se lo curi, mi saluti la famiglia sua, tanti cari saluti. A quello che mangia, attenzione, che a quello che mangia. No, sembra di essere un film, un brutto film dove purtroppo invece è tutto molto reale, è tutto molto vero, sono i classici nodi che vengono al pettine, è facile comprarsi poche migliaia di voti, però poi uno si dimentica che quando uno compra un voto poi non soltanto deve pagare 50 euro, ma poi ha un debito nei confronti di persone che sono senza scrupoli, sono persone pericolose, sono persone che dovrebbero stare lontani anni luce dalla politica, invece vediamo che sono proprio dentro con le mani in pasta, quindi... Tutto questo, ora al di là di Zambetti, poi quanti Zambetti ci sono in Italia? No, ma è chiaro. No, ma infatti, speriamo pochi. Io ti vorrei chiedere invece com'è Nicole Minetti? Questa è una domanda che mi è rimasta qui da, no? A me domanda pregnante del giorno. Ci abbiamo davvero azzeccato a fare questa intervista con Nicole Minetti, perché nella conferenza stampa di presentazione non si parlava d'altro. Ma certo. Dopo l'intervista non si parla d'altro. Ma certo che avete fatto bene, ma che scherzi. Senti, io devo utilizzare in questo minuto ti devo utilizzare privatamente. Sai che è successo ieri su Rai 3, Radio Rai 3, perché noi non abbiamo problema a fare pubblicità anche agli altri, sì. C'è la rassegna stampa che va in contemporanea alla nostra ora. Questa settimana la cura Antonella Rampino, collega. Senti ieri come ha chiuso la rassegna stampa, è su Radio Rai 3. Questa rassegna stampa finisce qui, dunque per oggi Antonella Rampino vi saluta e ci sentiamo domattina puntuali alle 7:15, per favore anche quelli che sentono la rassegna di Radio 24. Ma come, Alessio? Ci rubano gli ascoltatori. Per favore, anche quelli che ascoltano Radio 24, domani seguitemi su Rai 3. Ma come? Guarda, non passeranno! Non ce la faranno a rubarci gli ascoltatori. Sono le due rassegne che sento anche io. Ma no, ma come le due? Tu sei una specie di... Tu sei un po' come un appuntamento fisso perché ci sei sempre. Su Rai 3 invece uno... La rassegna stampa se la ascolta a seconda di chi. No, adesso allora tu, in 10 secondi, adesso tira giù un attimo la sigla, Peter. Abbiamo 10 secondi. Devi dire: io, Alessio Vinci, ascolto la rassegna stampa di Radio 24. Cari amici, buongiorno. Ascoltate la rassegna stampa di Radio 24, perché ogni tanto il venerdì c'è anche Alessio Vinci. Sei un farabutto. In bocca al lupo ovviamente per domenica. Grazie per essere stato con noi, Alessio Vinci. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanna fa. Qua ricetta caccia cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Siamo pronti alla lettura dei giornali, vi ricordo che avremo ospite alle 8:15 Roberto Formigoni, il presidente che rimane, che continua, dice non mi dimetto, alla Regione Lombardia. Tra un'ora esatta, quindi anzi tra un'ora scarsa, nostri microfoni. Avremo ospite anche alle 8:30 Demetrio Arena, l'ex sindaco, ex perché Reggio Calabria è stata fatta decadere, è stata sciolta per mafia, le possibili collusioni con la mafia dal Ministero dell'Interno, e quindi parleremo ancora di politica, 'ndrangheta. Avremo ospite oggi anche Giulio Cavalli, il consigliere regionale in Lombardia, che invece è da anni sotto scorta per la sua battaglia da attore contro le cosche. Tutto questo più avanti, ora appunto la lettura dei quotidiani. È venerdì 12 ottobre, intanto uno sguardo ai titoli. Il Sole 24 Ore apre oggi sulla legge di stabilità con uno scoop. Si è scoperto nella bozza, che dovrà essere confermata, che sono retroattivi i tagli agli sconti fiscali. Dunque una brutta botta se fosse confermata. Poi vedremo nei dettagli cosa vuol dire. Questo è il titolo di prima pagina. Poi la vicenda Lombardia. Formigoni resta, sì, della Lega per il Corriere della Sera. Repubblica invece Lombardia, la Lega salva Formigoni. La Stampa, Lombardia, Formigoni resiste. L'Unità, Formigoni salvato dalla Lega. Il Messaggero, la Lega salva Formigoni. Insomma, titoli abbastanza simili. Mentre il Fatto Quotidiano, scoperto il bancomat dei politici, è solo un titolo, in realtà rimanda all'Espresso che pubblica le telefonate con Ponzellini quando guidava la Banca Popolare. La Russa preme per la ex moglie, Paolo Berlusconi deve rientrare di 2 milioni, la Santanchè chiede aiuto per la sua azienda, c'è anche il capo della finanza che chiede le sigarette al direttore dei monopoli di Stato. Invece il giornale Metodo Woodcock, ora tocca a Passera, ci sono nuove intercettazioni sul caso Finmeccanica al veleno per il giornale, mentre Libero, sacrifici per tutti ma non per i giudici. Cito per ultimo Libero perché da qui voglio partire, da questa notizia che c'è su tutti i giornali. Cari ascoltatori, è il momento dei tagli, è il momento dei sacrifici, lo sappiamo, ormai l'abbiamo imparato bene, ma non per tutti. Sacrifici, ma non per tutti. Ieri la Corte Costituzionale ha deciso che sono incostituzionali, appunto, i tagli per i giudici e i manager della pubblica amministrazione che guadagnano più di 90.000 euro. In sintesi è stato bocciato dunque quel contributo di solidarietà che, ricordate, il governo Berlusconi col ministro Tremonti aveva introdotto. Sacrifici, ma non per tutti. Ecco perché Libero titola in prima pagina, prendendosela soprattutto coi giudici, così: sacrifici per tutti, ma non per i giudici. Tra l'altro, ovviamente, la Corte Costituzionale, dunque magistrati che hanno deciso, non solo magistrati per la verità, ma anche magistrati, giudici che decidono per altri giudici. Vabbè, d'altronde come si può fare? Bocciati tagli per giudici e manager, così a pagina 11 del Corriere della Sera. O il secolo XIX, la casta di giudici e manager non paga il conto, lo trovate a pagina 9. Anche su Repubblica, pagina 19, la Consulta salva i maxi stipendi pubblici. Insomma, come dire, una non buona notizia a parte i giudici e chi nella pubblica amministrazione, i magistrati e chi nella pubblica amministrazione guadagna più di 90.000 euro. Dopodiché, cari ascoltatori, io la voglio parlare qui perché è la notizia che per molti versi credo sia più popolare in questo momento e che, come abbiamo detto anche nel bar di Radio 24 alle 6.30, è più discussa, io credo, in tutte le famiglie italiane. Quel video, l'avete visto quel video di quel bambino trascinato via da scuola 10 anni perché c'era un'ordinanza del giudice? Bimbo conteso tra madre e padre, una battaglia a carte bollate che durava anni. Alla fine il giudice ha stabilito che l'affidamento era in esclusiva al padre. Questo bambino si era già rifiutato di seguire gli assistenti sociali, gli psicologi. Quando si presentavano a casa, allora sono andati a prelevarlo a scuola. Sono andati anche con la polizia e gli effetti li avete forse visto in questo video. Bambino di 10 anni trascinato mentre la zia, quindi la sorella della madre, riprendeva dicendo smettetela, non siete la, cosa siete, la Gestapo. Insomma, una scena davvero terribile. Voglio partire dal secolo XIX perché c'è un articolo che è in prima pagina e la firma è di Marco Menduni. Manganelli, chi sbaglia paga. Manganelli è il capo della polizia. Chi era accanto al capo della polizia quando ha visto quel filmato racconta di una smorfia sulle labbra tra il dolore e la rabbia. Queste immagini sono intollerabili, qualcuno deve pagare. Queste le prime dichiarazioni del capo della polizia. Passa solo qualche ora, arrivano le dichiarazioni ufficiali, la sostanza è la stessa anche se le parole sono appena più misurate. C'è profondo rammarico, ci sono le scuse al ragazzino e ai suoi familiari, c'è soprattutto la dichiarazione di voler far chiarezza senza nascondere nulla, massimo rigore nell'inchiesta interna avviata, promette Manganelli. Tanto che a pagina 3 il secolo XIX titola così: l'ira di Manganelli, qualcuno pagherà. Ed è emblematico, guardate che questa è la notizia sicuramente più popolare, perché molti giornali magari non aprono col titolo di prima pagina, ma il secolo XIX la mette a pagina 2-3, Repubblica la mette a pagina 2-3 e anche 4, La Stampa idem, il Corriere la mette un po' più avanti, ma è una cosa scioccante, perché tutti potremmo immedesimarci in una situazione del genere. D'altronde la base è una delle tante situazioni che succedono in Italia: una coppia che si separa, si litiga sui figli e alla fine, appunto, l'epilogo, questa volta si spera in casi limitatissimi, come in questo caso drammatico. Ci sono anche tanti commenti, ne segnalo alcuno. Fulvio Scaparro, che è psicoterapeuta, sul Corriere della Sera, pagina 24, il titolo è «Quella guerra da evitare tra il clan delle famiglie», scrive Scaparro: «Ad evitare ogni equivoco, coinvolgere bambine e bambini in scene come quella filmata l'altro ieri davanti a una scuola elementare, anche se motivate dall'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria, è inaccettabile, tanto più in quanto gli adulti si sono affrontati in nome del non meglio precisato superiore interesse del bambino. Al di là delle disquisizioni legali, l'interesse dei figli, quale che sia la loro età, è la pace, cioè affetti e legami stabili e sicuri, legami con un ambiente che è fatto di oggetti, esseri umani, animali, sensazioni e immagini familiari. Guerra è invece perdita o rischio di perdita di tutto questo. In un'altra occasione ho ammesso di non conoscere angoscia più grande per un bambino di quella che ha origine dalle accanite battaglie quotidiane tra genitori, e non mi riferivo di certo ai conflitti di normale amministrazione in ogni famiglia, che è da sempre un'unione di diversi per età, sesso e tanto altro ancora. L'opinione pubblica deve sapere quanto siano numerosi i casi di figlie e figli esposti ogni giorno agli effetti devastanti di guerre tra genitori, spesso con l'intervento dei relativi clan familiari. Guerre combattute senza esclusione di colpi, in cui i rancori, le delusioni, la rabbia, il dolore per un progetto di convivenza fallito accecano i genitori fino a colpirsi reciprocamente attraverso la contesa del possesso dei figli, neanche questi fossero una proprietà dell'uno o dell'altro». Sta di fatto, questo è Fulvio Scaparro sul Corriere della Sera. Ci sono molti articoli che riepilogano una vicenda che dura da anni. Alla fine il giudice ha dato ragione, il tribunale, al padre. Ma è anche qui un battagliare di interviste. La madre che dice: il papà lo chiudeva in casa, per questo ho detto basta e gli ho impedito di vederlo. Il papà che fa l'avvocato, che dice: la mia ex voleva la guerra, ma ora ho liberato mio figlio e potrà avere due genitori, perché certo io gli permetterò di vedere assolutamente anche la madre. Anche qui, in queste battaglie di interviste, davvero si vede purtroppo qualcosa di poco consono a quello che è poi l'interesse del bambino. Sul Messaggero, a pagina 3, la madre è stato rapito e il padre così l'ho salvato. Ci sono le rispettive interviste, due posizioni nelle quali non abbiamo nessuna possibilità e nessun dovere, nessun assolutamente intenzione anche di entrare nel merito. Ognuno avrà ragione dal proprio punto di vista. Certo che l'effetto finale è stato devastante. In più, con quel video che mette sotto accusa le forze dell'ordine, davvero incredibile, un bambino di 10 anni portato via come se fosse un delinquente dalla scuola. E voglio riprendere in mano il Sole 24 Ore, perché il Sole 24 Ore oggi, sulla legge di stabilità, andando a spulciare quella che è la bozza della legge che poi andrà convertita ovviamente in legge definitiva, ha scoperto una cosa che non è molto molto piacevole. E lo scoop che viene messo in prima pagina e vale a dire è questo: Italia, gli sconti fiscali sono retroattivi, dunque i limiti a detrazioni e deduzioni previsti anche per l'anno in corso. Di cosa si tratta? Della franchigia di 250 euro prevista dalla legge di stabilità per deduzione e detrazione sui redditi oltre 15.000 euro, che si applicherà a quasi tutte le agevolazioni intanto e avrà efficacia retroattiva, scatterà dalle prossime dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2012, dunque per l'anno in corso. Retroattivo pure il tetto di 3.000 euro per le sole detrazioni. Queste sono le principali novità in ambito tributario scovate nella legge, tanto che Salvatore Padula fa un editoriale di prima pagina dal titolo «Per favore ripensateci», scrive Padula: più fastidioso di un ulteriore aumento del peso del fisco c'è verosimilmente solo un aumento retroattivo del prelievo. Se la bozza del disegno di legge sarà confermata nel testo definitivo, ci troveremo di fronte a un ennesimo spiacevole caso di arroganza fiscale. Il motivo è detto scritto, spulciando tra articoli e commi del disegno di legge, si scopre che l'annunciata stretta su spese detraibili e oneri deducibili per chi ha redditi oltre 15.000 euro non solo è più pesante di quanto si poteva fino a ieri immaginare, almeno leggendo il comunicato di Palazzo Chigi, ma addirittura che le limitazioni introdotte su molti sconti fiscali scattano già nella dichiarazione dei redditi di quest'anno, il 2012. Ridurre i vantaggi di deduzione e detrazione equivale ovviamente ad aumentare il livello del prelievo. Oltre a una questione puramente economica, scrive Padula, c'è anche una questione di bon ton, se proprio non vogliamo scomodare l'etica, una questione che si lega strettamente al crescente disagio fiscale di cittadini e operatori. Insomma, pensavate che le tasse fossero abbastanza? Eccola qua la novità, l'Italia, gli sconti fiscali che sono retroattivi valgono da subito, già dalla dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo e dunque per l'anno d'imposta attuale. Il Sole tra l'altro ha fatto anche un calcolo sul fisco, mettendo insieme gli sconti fiscali e l'aumento dell'IVA, l'effetto combinato, trovate a pagina 15 gli articoli di Rossella Cadeo e Gianni Trovati, l'effetto combinato di tagli IRPEF e incrementi d'imposta porta a regime rincari fino a 160 euro annui di media, e questo appunto lo trovate con varie simulazione per chi è single, per una coppia con meno di 35 anni senza figli, per le coppie con più di 65 anni senza figli, insomma tutte le varie simulazioni e quelle che sono l'IRPEF, le deduzioni, le detrazioni, l'effetto dell'aumento dell'IVA da luglio dell'anno prossimo e i risultati che non sono mai incoraggianti. Questo per quel che riguarda la legge di stabilità, trovate appunto il dettaglio poi sul Sole 24 Ore. Politicamente invece la notizia del giorno certamente è la lunga giornata che ha portato per alcuni alla possibile dimissione di Formigoni, soprattutto la Lega che poteva staccare la spina, come si usa in gergo politico, cioè far cadere la maggioranza in Lombardia. Dopo una lunga giornata di consulti a Roma è intervenuto anche personalmente Berlusconi, secondo i quotidiani. Formigoni dice: a zero la giunta ma resto. Formigoni sarà nostro ospite alle 8:15, dunque faremo tutte le domande del caso, però già sui giornali ci sono in realtà dei retroscena che raccontano come la tenuta politica di Formigoni non sia poi così sicura. Intanto per il Corriere della Sera ha fatto un compromesso, cioè non si dimette e azzera però la giunta. In realtà a pagina 3 c'è un retroscena firma Elisabetta Soglio dal titolo «Quel piano per il voto anticipato sospeso dopo le manette a Zambetti». Di cosa si tratta? Beh, intanto scrive Soglio: «Su una cosa il governatore perentorio, la data delle elezioni l'ha detta lui. Quindi per ora si fa la giunta, si rilancia il programma, l'annuncio del voto ad aprile potrebbe arrivare ma da lui». Dunque non è ancora esclusa la possibilità che Formigoni ad aprile voglia andare a votare, quindi faccia sciogliere tutto. Ma il governatore lombardo, scrive Elisabetta Soglio, aveva trovato la sua strada, stava in effetti pensando al futuro e per la prima volta, dopo tanti mesi di inchieste, accuse, attacchi, ispezioni della Guardia di Finanza, indagati, arrestati, il suo atteggiamento pareva cambiato. Pronto, aveva detto a qualcuno dei suoi, a iniziare un percorso che portasse al voto anticipato. Ma l'arresto di Zambetti ha fatto crollare le buone intenzioni e Formigoni ha rimesso tutto in discussione, soprattutto quando si è visto messo alle strette dai leghisti, tanto che avrebbe risposto così: «Io non accetto ordini da Salvini», ha tuonato durante una telefonata. E il presidente Berlusconi, sentito anche ieri mattina, gli ha dato manforte, ma fino a un certo punto l'alleanza con la Lega, ha detto Berlusconi, va preservata. Insomma, per ora c'è una sorta di congelamento della rottura, pare, come titola sempre il Corriere a pagina 5. Altri 100 giorni per il governatore, ma Salvini continua a dire, per esempio, per noi si vota in primavera. C'è poi Umberto Bossi che dice: «Fossi in lui, fossi in Formigoni, non mi dimetterei». Umberto Bossi, il padre nobile della Lega, gli è veramente rimasta qui evidentemente anche il suo passo indietro che è stato costretto a fare. Certo, poi se ci si esercita nel retroscena della politica basta leggere due giornali che danno due interpretazioni opposte, Repubblica e Libero. Guardate i titoli. A pagina 7 Carmelo Lo Papa su Repubblica: «Ma Berlusconi molla il governatore, non faremo come con la Polverini». Secondo Carmelo Lo Papa, la corsa di Roberto Formigoni per Silvio Berlusconi finisce qui. Poco più avanti al più, ma in primavera comunque in Lombardia si vota. Dunque, secondo retroscena di Repubblica, Berlusconi comunque ha detto a primavera si vota. Libero invece, la strategia del Cavaliere: Silvio sta con il celeste per non votare. Vedete che è il bello della politica, no? Ci si esercita tra le varie interpretazioni. Berlusconi vuole prendere tempo, e scrive Barbara Romano nell'articolo che trovate a pagina 9, tra l'altro, a tutte le persone che incontra, volti nuovi, volti giovani, visto che sta facendo proseliti tra i giovani amministratori e nelle società civile, a tutti questi che incontra Berlusconi ripete il mantra di Steve Jobs: stay hungry, stay foolish. Questo sarebbe Berlusconi negli ultimi tempi, quando incontra le persone. Certo, gran brutta storia questa dell'arresto di Zambetti. Escono sempre nuovi particolari, nuove intercettazioni. Sentite per esempio come il boss, che secondo l'accusa lo aveva in mano perché Zambetti gli aveva comprato i voti, parlava di lui con altri così: un boss, è sempre meglio averlo un amico in regione Lombardia, se no, se sgarra, dopo andiamo a prenderlo e lo crepiamo. Parliamoci chiaro, lo andiamo a prendere in ufficio e lo crepiamo di palate. Questo è uno dei boss intercettati, che poi dice aiutiamolo ancora, un appaltino, non si sa mai che ci scappi. Insomma, escono nuovi dettagli dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Colpisce che in tutto questo Gianfranco Rotondi faccia un'intervista al quotidiano Pubblico, intervistato da Tommaso Labate. Sentite cosa dice di Zambetti: è un mio amico, e vabbè, e fin qui nulla di male. Non lo rinnego certo, è una persona onesta. Se ha commesso un errore è stato quello di non avere denunciato prima il sistema paludoso, le minacce dell''ndrangheta, i tentativi di estorsione di cui secondo me è stato parte lesa. Se, dice, Rotondi, se ha commesso un errore è quello di non avere denunciato. Se Zambetti è un uomo dell''ndrangheta, io sono il referente della mafia americana in Italia. Questo Gianfranco Rotondi, intervistato da Pubblico. Sta di fatto che la situazione è davvero difficile. Lo stesso Napolitano ha parlato contro lo spreco di denaro pubblico, ha detto: le regioni, per carità, non le scioglieremo, non le azzereremo, sono istituzioni importanti, insomma, giustamente, rispetto delle istituzioni, dal capo dello Stato, ma ha tuonato ancora una volta ieri sera contro lo sperpero di denaro pubblico. Allora, devo fare una precisazione: ci sono molte persone piccate che mi scrivono: guardi che non è l'unica rassegna stampa quella di Radio 24, via SMS. Ma lo so, ma stavo giocando. Prima abbiamo mandato in onda la collega che ieri su Radio Rai 3 ha concluso la rassegna stampa dicendo: e domani ascoltate tutti Radio Rai 3, anche tutti quelli che ascoltano la rassegna stampa di Radio 24. E mi prendevo in giro su questo. Ridete, sorridete. Io diffido delle persone che non sanno sorridere. Diffido tantissimo, lo so benissimo che non siamo l'unica rassegna stampa radiofonica in Italia, però siamo i migliori, ecco, tutto qua. Allora, continuiamo. Dicevo, la storia virtuosa la vuole raccontare Pierangelo Sapegno sulla stampa, pagina 9. L'antifiorito sta a Bologna, questo è il titolo. Tutti gli scontrini sul web, e viene presentato l'assessore Matteo Lepore, 32 anni, uno che si sposta con una utilitaria a metano, paga di tasca sua il parcheggio come tutti gli assessori del comune di Bologna e come tutti i cittadini, però insomma non ha pass per entrare come amministratore. La prima buona notizia è che, nonostante gli siano state affidate le missioni all'estero della giunta, non ne spreca molto. Finora ho speso 4.500 euro su un budget di 20.000, che è già basso, e sono stato in 6 posti con 4.500 euro: a Utrecht, a Bruxelles, a Montreal. Accidenti, Franco Fiorito, manco un aperitivo si faceva con 4.500 euro. E poi metto tutto online in nome della trasparenza al sito www.matteolepore.it. E scrive Sapegno Una teoria che anch'io su Twitter ormai sto rivalutando tantissimo. Matteo Lepore anche lombrosianamente si discosta molto dai suoi colleghi finiti agli onori della cronaca con il loro pancione, le grandi mascelle da roditori e gli sguardi a palla. Lui è magro, capelli castani corti, faccia per bene, liceo Galvani di Bologna, laurea subito e master al sole. Ah, master al sole 24 ore, ma non l'ho letto per questo, mi accuseranno di aver fatto questo per fare una tirata al sole 24 ore. Vabbè, questa è la storia di Matteo Lepore, la trovate sulla Stampa, che poi fa quello che dovrebbero fare tutti gli amministratori, quello che dovrebbe essere la normalità, ma in Italia evidentemente questa normalità finisce per diventare una notizia sulla Stampa a pagina 9. A proposito di teorie lombrosiane, sentite anche come Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera descrive Vincenzo Maruccio, l'ex capogruppo dell'Italia dei Valori, accusato di essersi appropriato circa 780.000 euro usciti dalle casse del partito e transitati su 10 i conti correnti. Trovate a pagina 10 questo profilo. In realtà lui di solito non appariva moltissimo per essere un esibizionista, unici vezzi indossare abiti di sartoria ed è goloso di maccheroncini all'anduia. Vabbè, scrive Fabrizio Roncone, racconta così la telefonata di Di Pietro a lui: tu ti devi dimettere entro 3 ore, ma Tonino io, tu ti dimetti, capito? Tonino, vorrei solo, ti dimetti sì o no? Ma dai Tonino, ti devi dimettere, e così in 3 ore si è dimesso. E sentite Roncone come conclude, è entrato in politica ed era magro. Magrissimo, sono tutti magri, magrissimi, quando cominciano a fare politica, Batman fiorito, Totò Cuffaro, poi succede qualcosa e ingrassano. Questa è la chiusa dell'articolo di Fabrizio Roncone, il profilo di Vincenzo Maruccio. Segnalo, non so se è una boutade, non so se è davvero così che circola, che il clima è talmente difficile dal punto di vista politico e dal punto di vista delle inchieste giudiziarie che a Montecitorio torna la paura di mani pulite, così titola Repubblica. A pagina 9 c'è questa battuta di Alessandra Mussolini. Ho visto persone in aula, colleghi che parlano da soli, altri che recitano le novene, fa che non tocchi a me. Ecco, Alessandra Mussolini in genere è una che esagera anche magari la rappresentazione della realtà, ma colleghi che parlano da soli come se fossero, che ne so, in trance, e colleghi che recitano le novene, fa che non tocchi a me, io stento a crederci. Però il clima, tanto per dire, è quello. Se volete trovate una approfondita intervista di Matteo Renzi sul Sole 24 Ore, pagina 25, parla soprattutto di economia e di finanza, visto che viene spesso accusato di non avere un programma, ma lui si toglie un sassolino dalla scarpa quando dice il mio programma è online da luglio, mentre quello di Bersani non c'è, e parla di come prevede tagli fiscali per portare 100 euro in più al mese per le famiglie italiane. Questo lo trovate in intervista di Fabrizio Forché a pagina 25 del Sole. Devo concludere ancora una volta con il Milan, perché ormai è sempre più ufficiale, questo è il titolo di prima pagina della Gazzetta, che mette Berlusconi agghindato come uno sceicco arabo. Dopo i russi, la teoria della Gazzetta è questa: Milan d'Arabia. Berlusconi vuole cedere il 30% della società rossonera per 250 milioni di euro. A chi li venderebbe? Agli sceicchi che hanno il Paris Saint-Germain. Ecco perché si è spiegato tutto. Cioè, ha dato Ibrahimovic, ha dato Thiago Silva, ha dato tutti al Paris Saint-Germain. Ora può darsi che venda anche il Milan agli sceicchi del Paris Saint-Germain. Magari, dico io, magari. Tra pochissimo sarà ai nostri microfoni il governatore della regione Lombardia, Roberto Formigoni. Stiamo chiamando in questo istante, un piccolo ritardo tecnico. Ovviamente parliamo con l'uomo del giorno, vale a dire colui che ha deciso di continuare la sua esperienza politica nella regione. Eccolo qui, lo saluto. Presidente, buongiorno e grazie per essere con noi, Roberto Formigoni. Buongiorno a voi, buongiorno. Senta, le chiedo, dopo l'arresto di Zambetti, lei non ha mai sentito il dovere di dimettersi? Ma vede, dimettermi significa aprire una crisi in Regione Lombardia in un momento così difficile per l'economia, di una giunta che tutti lo riconoscono ha lavorato e sta lavorando molto bene, perché se siamo la regione più virtuosa d'Italia, l'unica con i conti in ordine, qualche merito ce l'avremmo pure, no? Quindi, di fronte ad una colpa molto grave, straordinariamente grave, di un uomo che fra l'altro mi aveva giurato due volte di non avere nessuna pendenza aperta, è meglio pensare all'interesse collettivo e in questo momento, ripeto, di grande difficoltà, la giunta migliore d'Italia per risultati ha l'obbligo di andare avanti perché il Presidente non è toccato da, e gli altri assessori del resto non sono toccati, a noi non sono contestati atti contrari all'interesse pubblico. Però, quindi ho ritenuto di dare un segnale fortissimo di discontinuità. Sì. Azzerando gli incarichi, o meglio accettando le dimissioni che spontaneamente gli assessori si erano detti disposti a dare, assessori, ripeto, che non sono toccati da inchieste o altre cose, ma questo è il modo per dire ai cittadini che la mafia, la 'ndrangheta non possono pensare di entrare in Regione Lombardia e continuiamo a lavorare con una giunta che formerò nei prossimi giorni. Sì. Più snella e rinnovata. Però Presidente, lei dice una giunta efficiente, però anche una giunta che in diversi problemi ha avuto diversi problemi a vario titolo giudiziari di attuali assessori o precedenti assessori. Questo sono la sua squadra, le persone che lei si è scelto e che molti a vario titolo hanno avuto dei problemi giudiziari. Ma guardi, gli assessori che hanno problemi sono Belotti, che avrebbe partecipato ad azioni di ultra da tifoso del calcio, lei capisce che è un po' pochino per ritenere che sia un cattivo amministratore, e un altro che avrebbe avuto un finanziamento che si è dimenticato di segnalare di un paio di migliaia di euro. Ma anche ex assessori, Ponzoni, Buscemi. Ex, ha detto bene. Ex. Gente che non avevo voluto riconfermare in giunta, come non avrei voluto riconfermare Zambetti, perché appunto col tempo si conoscono meglio le persone. A lei non avrebbe voluto, cioè aveva pensato già a un rimpasto? Cosa vuol dire non avrebbe voluto riconfermare? Nel 2010 non avrei voluto riconfermarlo, avrei voluto nel 2010, ho fatto un cambiamento rispetto alle giunte precedenti e non avrei voluto riconfermare Zambetti. Ma perché l'ha confermato? Cioè non li sceglie lei gli assessori? Ma è anche supportato da partiti, quindi non siamo dei dittatori sudamericani che fanno quello che vogliono. Giustamente c'è un ruolo dei partiti con i quali si discute, con i quali si arrivano a delle soluzioni. In questo caso aveva ragione il mio intuito, è stato fatto un errore, lo ripeto quello che ho detto più volte in questi giorni, Zambetti personalmente aveva giurato e spergiurato di non avere nulla a che fare, è stato uno spergiuro e questo mi dispiace ancora di più perché gli avevo detto hai una lunga militanza politica, capisci che deve prevalere l'interesse dei cittadini, quindi hai dei problemi, l'ho affrontato personalmente più volte, sempre giurato, stragiurato, spergiurato di non avere nulla a che fare. Purtroppo mentiva a me, ha tradito la fiducia mia, ha tradito la fiducia dei cittadini e quindi questa è la situazione, paga per colpe che non ha voluto ammettere in anticipo. Ma perché lei dice avevo imparato a conoscerlo meglio? Aveva avuto anche dei sentori di quello che poi è successo? Sì, no, di quello che poi è successo no, ma circolavano delle strane voci, sa, bisogna anche tener conto che purtroppo in questo periodo a Milano, anzi in questi 3 anni a Milano, delle voci circolano su quasi tutti gli uomini che sono impegnati, non solo in politica ma nell'economia, e quindi si tratta di andare di capire, di andare con i piedi piombo. Comunque torno a dire, guardiamo avanti, abbiamo deciso di dare questo segnale molto, molto forte, una giunta nuova, una giunta ridimensionata, un programma che comprenderà la riforma del welfare, un'ulteriore riforma della sanità per andare ancora più efficienti i servizi, una proposta forte sulle macro regioni, un tema che io ho voluto lanciare da diversi mesi perché in questo momento noi daremo un ulteriore esempio di efficienza collaborando tra regioni già efficienti come sono quelli del nord, andando verso un governo più snello, meno costoso. Questi sono tutti fatti concreti che presenterò con la nuova giunta nei prossimi giorni. Però Presidente, ma lei parla molto al futuro, ma i giornali li avrà già visti, anche il nostro Stefano Folli oggi si chiede ma cosa deve succedere ancora in Regione Lombardia perché non si capisca che questa esperienza politica deve finire. Perché dovrebbe finire? Torno a dire, guardiamo alla sostanza dei fatti. La Regione Lombardia è una regione che ha costruito 10 nuovi ospedali in un tempo medio di 3 anni quando in Italia ci vogliono più di 12 anni per costruire gli ospedali. Nonostante il taglio dei finanziamenti del trasporto pubblico locale, abbiamo aumentato il numero delle corse ferroviarie, abbiamo comprato nuovi treni, abbiamo fatto investimenti per decine di miliardi di euro in questi anni, sì, proprio perché amministriamo bene Regione Lombardia. Questa è, questa è l'efficienza. La politica deve, è capito, ma questa è la cosa. No, però le chiedo, no, ma però mi scusi. In un paese che non funziona. Sì, però Formigoni, mi perdoni se mi lasci rispondere. Lo Stato, sì, lei sa che gli imprenditori si suicidano, ne avete parlato voi diverse volte. Noi sì, abbiamo fatto anche un'iniziativa. Lo Stato non paga se non dopo anni di ritardo. Regione Lombardia paga dopo 60 giorni. Sì, però mi faccia fare questa obiezione, allora, che ho fatto anche ieri. Sono queste le cose. No, ho capito, mi faccia fare questo tipo di domanda. Se, e dico se, è un'ipotesi, per fare tutto ma il massimo. Ma non lo dica nemmeno se. No, dico, ma se per fare. Sui fatti. No, mi faccia fare la domanda. Se per essere efficienti. Formigoni. I loro problemi. Sì, Presidente, però mi faccia fare le domande, sennò come facciamo? Viviamo meglio di chiunque altro. Però, Presidente, mi faccia fare questa domanda. Se per essere efficienti, però, si scopre anche, se si dovesse scoprire che una parte dei voti sono stati portati dall''ndrangheta, io vorrei magari meno efficienza, se magari questo vuol dire portare... Ah, bene, ecco. Se questo vuol dire portare voti all''ndrangheta... Mi ha fatto la domanda, mi lasci rispondere. Sì. È scorretto il collegare che per essere efficienti bisogna. Noi siamo efficienti nonostante qualcuno faccia quelle porcate lì, ovviamente se saranno dimostrate. Noi siamo efficienti pur lavorando in condizioni difficilissime e pur dovendo io fare i conti costantemente con delle inchieste che vengono fatte, che poi il più delle volte vengono dimostrate infondate, sì, perché le devo ricordare che in questi anni contro di noi sono state sollevate ipotesi, comportamenti scorretti a decine che poi sono tutte regolarmente cadute nel nulla. Ma scusi, se la Corte dei Conti, come in Lombardia, dà voti ottimi o sufficienti a tutti i capitoli del nostro bilancio e nelle altre regioni capita esattamente l'incontrario, non vi viene il dubbio che forse la corruzione è diffusa laddove c'è inefficienza? E qui invece può esserci il caso Zambetti, gravissimo, l'ho definito gravissimo, perché appunto che un politico faccia patti con l''ndrangheta è una cosa inaccettabile, ma si taglia via questo fatto, si dà ai cittadini il segnale forte che si cambia e si ha il dovere di continuare a fare di tutto per rispondere alle esigenze dei ecco cittadini. Ma continuare fino a quando? Sa che oggi molti retroscena della politica che leggerà sui giornali dicono che in realtà anche lei è convinto che non esclude che si possa andare a votare ad aprile. Lei in questo momento è certo di poter dire se arriverà al 2015 oppure si può anche ipotizzare che ad aprile si voterà? In Italia c'è qualcosa di certo in questo momento? Si sta ancora discutendo quale sarà la legge elettorale, si sta ancora discutendo la conformazione dei partiti. Noi ieri abbiamo fatto un patto per continuare, l'ho detto io, l'ha detto Alfano, l'ho detto Maroni, per continuare a portare avanti le politiche eccellenti di Regione Lombardia, dando un segnale forte all'opinione pubblica. Però non, diciamo, non c'è nulla di certo in questo mondo e quindi non è neanche certo. Non è escluso che si possa ipotizzare questa idea, 100 giorni no, e poi... No. Da domanda precisa, Maroni ha escluso di aver mai chiesto di andare a votare nell'aprile dell'anno 21, quindi noi riprendiamo adesso la prospettiva e la scadenza della legislatura 2015, come ho sempre detto, non intendo ricandidarmi, completerò 20 anni di mandato, intendo battermi come un leone, come ho fatto fino adesso, per respingere lontana l'immagine di una Lombardia corrotta, salvando le cose straordinariamente positive che abbiamo fatto in 20 anni. Torno a dire, per noi parlano i risultati, parla il lavoro della straordinaria squadra di dirigenti, di funzionari che lavorano con me in Regione Lombardia, il numero più basso di dirigenti e di funzionari, 3.000 persone che governano una regione di 10 milioni di abitanti con i costi più bassi, perché il nostro consiglio regionale costa 7,7 euro all'anno a persona, perché noi paghiamo l'impresa a 60 giorni, perché noi abbiamo la sanità più efficiente pur ricevendo dallo Stato meno contributi, queste sono, perché noi abbiamo il rating più alto dello Stato italiano, siamo l'unica regione europea che ha il rating più alto dello Stato, perché noi abbiamo introdotto la centralizzazione degli acquisti in sanità che ci fa risparmiare 200 milioni di euro, perché noi ma questi sono i risultati che lei snocciola ogni volta. Presidente Grechi del Tribunale di Milano, persona stimatissima, per aiutarci nella correttezza delle procedure, se sono tutti fatti di buon buon governo, anzi di ottimo governo, che tutta la nostra squadra, Lega, PDL, sì, Presidente sì. Formigoni in testa, rivendicano, intendono difendere contro ad una valanga di fango che ci è stata buttata. Senta, quello lei, dell'altro ieri sì. non è stato fango, no, è stato purtroppo la constatazione. Però dice sì, si può andare avanti. Un fatto gravissimo di una persona, e appunto per dare in maniera molto forte, molto immediata, un no a questi tentativi di infiltrazione dell'andrangheta, ecco la decisione di alterare la giunta accogliendo le dimissioni degli assessori. Ma chi ci saranno, politici o tecnici, la nuova giunta? Politici. Ci lavorerò in questi giorni, non ho mai detto di fare una giunta solo tecnica, ho detto che sarà una giunta rinnovata e ridimensionata. In quanti giorni, quanti numeri? In quanti, come, saranno, quanti saranno come numero? Cioè, questo l'ho già detto, rinnovata e ridimensionata. Meno. Ai due aggettivi che ho usato nella giornata di ieri. Ho bisogno evidentemente di trovare persone di grandi competenze, di grandi capacità, perché affidare, che ne so, la sanità, i trasporti di una regione che è più grande dei tre quarti degli stati europei, lei capisce che sì. non è una vicenda semplice. Devo sostituire delle persone capaci. E si sente salvato dalla Lega? Come scrivo? No, no. Non mi sento salvato dalla Lega, mi sento che ieri abbiamo lavorato insieme, i due partiti che mi sostengono e il Presidente, per trovare la formula migliore di dare insieme un segnale di forte discontinuità, ma insieme anche un segnale di continuità con le politiche, con le buone politiche fatte. E comunque in questi giorni lei non ha mai neanche per un secondo, ha sentito Berlusconi, pensato alle dimissioni, perché per il Corriere della Sera addirittura lei le stava ipotizzando poco prima dell'arresto di Zambetti, poi questo arresto ha cambiato le carte in tavola. Lei non ha mai pensato a dimettersi? Guardi, credo che questo ai cittadini la risposta a questa domanda interessi zero. Beh, non è vero, se lei dice pensavo di dimettermi, ipotizzavo, no, potrebbe interessare. Mai pensato di dimettermi, il mio pensiero è sempre stato come garantire e migliorare l'efficienza dei nostri servizi. Dentro questo credo che un uomo politico di buon senso abbia il dovere di tenere sempre presente a 360 gradi la situazione e a 360 gradi tutte le possibilità. Dire no per pregiudizio ad una cosa o ad un'altra sarebbe un dogmatismo e un meccanicismo, una marmoreizzazione delle proprie posizioni inaccettabile. Quindi si considera sempre il tutto delle possibilità e poi si sceglie su quello che è il meglio o pare essere il meglio. Un'ultima cosa, è stato scarcerato, viene scarcerato Dacco insieme a Simone, li andrà a trovare personalmente? No, Simone più che altro. Temo di non avere il tempo nei prossimi giorni, ma certamente è una notizia alla quale ho gioito e mi sembra, dopo mesi di carcerazione preventiva che hanno superato tutti i record anche di Mani Pulite, la carcerazione preventiva è una tortura, è una cosa che dovrebbe essere limitata a casi molto precisi stabiliti dalla legge, che spesso invece vengono ignorati. Lei pensi che il 42% sì. dei detenuti in Italia è in attesa di processo? Certo. Quando si parla di sovraffollamento delle carceri si deve pensare che c'è un 42% di persone innocenti, delle quali la metà verranno riconosciute sì, innocenti. Certo. Ma è una questione, il 21% di persone sì. saranno state carcerate preventivamente senza essere colpevoli. Ma è una questione di tempo il fatto che non potrà trovarli, oppure... Ho indirizzato ieri un saluto calorosissimo via Twitter, che credo gli avrà fatto piacere. D'altra parte, che Simone sia un mio amico da oltre 40 anni, 43-44 anni, avevamo i calzoni corti, per modo di dire. Io avevo 20 anni quando lo conobbi e lui 17. La ringrazio, buona giornata. Altrettanto a voi. A Roberto Formigoni, presidente della Regione Lombardia. Noi tra poco invece avremo il caso Reggio Calabria, avremo un consigliere regionale della Lombardia, sempre Giulio Cavalli, e il sindaco decaduto a Reggio Calabria perché il ministro dell'interno ha sciolto il capoluogo, la prima volta in Italia. Voglio salutare Demetrio Arena, buongiorno e benvenuto Arena. Buongiorno a tutti. Lei è il sindaco decaduto di Reggio Calabria, prima volta in Italia che un capoluogo viene sciolto dal ministro dell'interno per contiguità, contiguità con la mafia. Mi lasci presentare, le voglio presentare anche un consigliere regionale della Lombardia, Giulio Cavalli, che saluto. Buongiorno Cavalli. Buongiorno a tutti. Di Sinistra Ecologia e Libertà. Giulio Cavalli è un attore nella vita da sempre, ma da qualche anno è anche consigliere regionale della Lombardia. Da quanti anni invece è scortato lei, Cavalli? 6 anni. 6 anni, per le minacce, per i suoi spettacoli. Lei ha portato in giro spettacoli, raccontava storie di 'ndrangheta, storie di criminalità organizzata. Da 6 anni a questo a qualcuno evidentemente non è piaciuto e vive sotto scorta. Vorrei iniziare, Demetrio Arena, vorrei iniziare da lei. Intanto, quali sono le sue sensazioni in questo momento? È la prima volta che viene sciolto un capoluogo in Italia, in questo caso Reggio Calabria. Lei perché ha detto ieri vuole ricorrere addirittura al TAR? Guardi, io non ho mai detto di voler ricorrere al TAR, ho detto proprio fino a ieri che non avendo ancora letto le carte, in questo momento il mio pensiero non è certo rivolto a un eventuale ricorso, per cui probabilmente ci penserò dopo aver letto il provvedimento, quindi sta valutando questa cosa. Come lei ben diceva, questo provvedimento è un provvedimento che ovviamente condanna ingiustamente un'intera comunità, la mortifica, e credo che anche sia un provvedimento che leda un po' anche l'immagine del nostro paese. Mi scusi, sindaco, non crede che la lede di più l'immagine dell'idea di un comune infiltrato o contiguo alla mafia più che lo scioglimento? Allora, guardi, il fenomeno, l'andrangheta, così come la mafia siciliana, è un fenomeno che ha grandi capacità pervasive, quindi certamente è un problema ed è rappresenta il cancro della mia città, della regione, e come stiamo vedendo penso che ormai sia un fenomeno nazionale. Occorre contrastarlo e occorre che ci siano gli strumenti per poterlo fare. Lei pensa che questo sia un fenomeno che si sia potuto concretizzare e realizzare in 6 mesi di un'attività di un'amministrazione comunale? Beh, guardi, basta votare, io non lo so, faccio un'ipotesi, ma basta portare voti ad alcune persone che vengono elette, per esempio. Il caso forse Zambetti in Lombardia potrebbe essere proprio questo, e quindi uno... Sì, guardi, il problema del voto, qui bisogna capire se bisogna sospendere il diritto di voto a chi è sospettato di mafia, e allora diventerebbe più facile, però si aprirebbe una riflessione più... No, comprano i voti delle persone normali. Ho capito, guardi, io in questi 2 giorni immagini quali sono i miei sentimenti e qual è sono i problemi che io sto in questo momento affrontando, quindi non sono molto attento a quello che sta succedendo in questo momento. No, ma io mi riferivo anche a Reggio Calabria, cioè un'ipotesi potrebbe essere quella: l'andrangheta compra dei voti per fare eleggere consiglieri comunali, alcune persone che poi ovviamente decidono appalti, decidono lavori. Non funziona così. Questo è una delle possibilità di penetrazione della mafia, quindi non è questo. La domanda che ci dobbiamo porre è che basta mandare a casa un'amministrazione dopo 6 mesi per sconfiggere la mafia, basta una gestione commissariale di 18 mesi per poter purificare una comunità e quindi consentire condizioni democratiche dopo 18 mesi di elezione, e quindi basta questo provvedimento per contrastare la mafia? Io questo non lo so, io non ho letto come immagino anche lei quello che ha scritto il prefetto di Reggio Calabria, che però pare abbia scritto delle cose insomma molto molto, magari tra qualche domanda tra poco gliela farò sui personaggi, però mi faccia dare la parola per un attimo a Giulio Cavalli, che è appunto per Sinistra Ecologia e Libertà e consigliere regionale Lombardia. Cavalli, che effetto le fa sapere sia della Lombardia sia del capoluogo Reggio Calabria sciolto per contiguità con la mafia? Insomma, è un momento molto particolare per la politica questo. Ma è un momento particolare, ma è un momento che ciclicamente si ripete. Il problema è che noi riusciamo ad aprire il dibattito politico solo quando cominciamo a camminare sulle macerie. Non è l'andrangheta che è pervasiva, è la politica che lascia aperte le porte ed è spesso convergente. Il caso Zambetti in Lombardia racconta non di una mafia, come fa comodo a troppa gente raccontare, che si infiltra nella politica. Il caso Zambetti in Lombardia racconta della politica che si infiltra nella mafia perché ha bisogno di servizi. Si mettono d'accordo sul prezzo, si mettono d'accordo sugli degli obiettivi convergenti. Io credo che finché non la smettiamo una volta per tutte di credere che il problema mafia sia sempre un problema esotico con la delega e la responsabilità a qualcun altro, ma che sia la politica che debba farsene carico, e quindi smettere una volta per tutte di fare manifestazioni, commemorazioni e metterla come primo punto dell'agenda, non ne usciamo. Il problema non è di regole, il problema è di spessore etico e morale della classe dirigente. Spessore etico e morale, per esempio Demetrio Arena, risulta da alcuni articoli, mi dica se è vero, che il presidente del consiglio comunale sciolto di Reggio Calabria sia andato ai funerali di un boss mafioso che è morto qualche anno fa, funerali che erano stati anche dichiarati diciamo non fattibili per motivi di ordine pubblico. È vera questa cosa? Guardi, se fosse vera le faccio una riflessione. Il presidente del consiglio comunale di Reggio Calabria è un poliziotto. Sì, sì, questo è vero, un poliziotto. E allora io mi domando, se è vera questa cosa, è possibile che un poliziotto, e quindi la polizia, non si sia resa conto che al proprio interno vi era un soggetto vicino a una cosca mafiosa? Guardi, io non mi riferisco, deve consentire no, un dibattito certo, più ampio. Non mi riferisco a questo caso in particolare del presidente del consiglio comunale, però mi faccia dire, non sarebbe la prima volta, mi scusi, le infiltrazioni avvengono a tutti i livelli. Bene, allora è questo che guardi, io ho apprezzato molto la dichiarazione dell'ospite in studio Giulio Cavalli, perché qui bisogna capire che all'andrangheta bisogna fare la guerra, e lo Stato deve fare la guerra, e le istituzioni devono fare rete per contrastare un fenomeno così pervasivo. No, ma questo allora, sì, però me lo dica con un sì o un no. Mi scusi, sindaco, la chiama ancora così. Me lo dica con un sì o con un no. Le risulta che il presidente del consiglio comunale sia andato a questi funerali, sì o no? Assolutamente. No. Ho appreso da 15 giorni sulla stampa che c'è un pentito che ha fatto queste dichiarazioni. Ah, che ha fatto queste dichiarazioni. L'ho preso 15 giorni come lei, l'ho preso come lei. Perché ci sono però i funerali saranno stati una cosa pubblica, cioè si sarà saputo chi c'era, chi non c'era. I funerali. Lei pensa che io posso sapere 4 anni fa, 3 anni fa, quando è stato questo funerale, penso pure di più, 10 anni fa, se c'era un componente della mia amministrazione al funerale. È venuto fuori e l'ho appreso dalla stampa. E in quel caso, quando lei lo apprende, lei non dice, non gliel'ha chiesto, dice è vero, non è vero che tu sei andato? Guardi, io al presidente del consiglio comunale non lo vedo da un mese. Beh, lo avrebbe potuto fargli una chiamata, una telefonata. Sì. Ma guardi che noi siamo sotto accesso da gennaio, quindi non è un problema che mi sono posto in questi termini. Sì. Ecco, vabbè. Ho appreso dalla stampa questa cosa. E quindi e non lo attendevamo la sentenza, quindi si figuri, si immagini. E poi, anche se fosse stato così, sa, io non avrei avuto lo strumento per ritirare la delega al presidente del consiglio comunale. Questo sì, però avrebbe potuto dirgli, avrebbe potuto magari prendere qualche, non so, qualche provvedimento, denunciare pubblicamente questa cosa. Cavalli, le voglio chiedere questo, non so se vuole commentare anche le parole del sindaco che dice io ho saputo forse che il presidente del consiglio comunale, forse così dice un pentito è andato a questo funerale, ma io non potrei comunque fare nulla. Non è vero che non si può fare nulla, io guardi, io non conosco la vicenda di Reggio Calabria e non mi piace parlare con superficialità senza avere le carte davanti, perché questa è la mia abitudine, però mi decidiamo una volta per tutte che la smettiamo semplicemente di arroccarci dietro la questione delle regole e rivendichiamo il diritto dell'opportunità e dell'inopportunità. Cioè, la domanda che io farei al sindaco Arena è opportuno che un presidente di un consiglio comunale frequenti un boss mafioso? Perché se aspettiamo che intervengano le leggi, noi siamo in un paese in cui... Però lui dice io l'ho scoperto dai giornali un mese fa, questo ci ha detto, un po' come tutti noi, insomma, di questa ipotesi. Benissimo, però siccome tutti noi cittadini, ognuno nel proprio lavoro e nella propria funzione, anche se non pubblico ma privata, in realtà siamo portati a dover dare delle giustificazioni, delle spiegazioni, delle nuove intenzioni nel caso di alcune ombre e errori. Non riesco a capire perché la politica si trincera sempre dietro la legge. Non è reato essere amico di un mafioso, però è inopportuno. E allora un po' di intolleranza sana su questo punto, secondo me. Lei quando si siede in consiglio regionale ha la sensazione, immagino anche adesso a vedere quello che è successo nel caso Zambetti, poi per carità ci sarà il processo, ma le carte sono abbastanza inquietanti, ha la sensazione di fastidio quando legge certe cose, sapere che lei è stato minacciato, è sotto scorta per questo e siede a fianco a persone che magari potrebbero, con quelle stesse persone che minacciano lei, essere scese a patti? Ma c'è un dato politico che è quello che, di cui si sta dibattendo in questi giorni, ma poi c'è un lato che è strettamente privato nel mio caso, nel senso, io la domanda che faccio Formigoni a Zambetti è: come posso raccontare ai miei figli che le persone che hanno rovinato la vita in questi ultimi 6 anni, condizionato la nostra vita, in realtà chiacchierano con gente che è cravatta in ruoli anche abbastanza importanti e siede vicino a me durante la giornata di lavoro? Il punto fondamentale è questo. Io credo che ci sia una visione anche profondamente umana che è inaccettabile. Poi, ovvio, Regione Lombardia non c'era bisogno di Zambetti. Tra l'altro, sai cosa ci ha detto su Zambetti Formigoni poco fa? È già uscito sull'agenzia. Ha detto: io nel 2010 circolavano voci su di lui e nel rimpasto di giunta non avrei voluto confermarlo. E il mio intuito ha avuto ragione, perché però sa, ci sono i partiti, c'è stata, ma c'erano voci che circolavano su di lui. Lei di queste voci sapeva qualcosa? Ma la cosa che mi stupisce è che l'uomo più vicino a Formigoni, che viene definito capitale sociale dell''Ndrangheta, che era Massimo Ponzoni, in realtà è stato riconfermato. Formigoni dimentica, lui che gioca tanto a fare il leader, che la figura del leader si esplica soprattutto nella scelta, nella coerenza e nella presa di responsabilità dei propri collaboratori. Quindi questo non è un errore, è un fallimento politico. Arena, tornerei da lei. Davvero, io non è che la voglio crocifiggere su questa cosa, poi, ovviamente giornalisticamente parlando, del funerale. Ma lei formulare, mi scusi, sì, una domanda: se lei mi avesse detto che cosa pensa di questa questione del presidente del consiglio comunale che sì, è andato, sì, che ne pensa? È una cosa di una gravità inaudita. Se poi lei mi dice come, perché non lo sapeva, come faceva a non sapere che è andato a un funerale, è un fatto paradossale. Sì. Se lei mi lascia soltanto 30 secondi, vorrei continuare il discorso che faceva l'ospite in studio. Fin quando su temi importanti come la giustizia e soprattutto come l''Ndrangheta si fonda uno scontro politico e si fanno dei distinguo e si porta sul teatrino della politica un problema così importante come l''Ndrangheta, noi con l''Ndrangheta ancora convideremo chissà quanto. Ma perché dice il teatrino? Più pervasiva in tutto il territorio. Perché dice il teatrino? In che senso? La lotta all''Ndrangheta è un problema serio che non può avere un colore politico e non può essere assolutamente utilizzato. Ma siamo d'accordo su questo? Presidente o quell'altro o quel su questo siamo d'accordo, sindaco. Questo, secondo me, è l'approccio. Credo che nel nostro paese su problemi fondamentali bisogna guadagnare più serietà anziché pensare alle risorse. Ma mi faccia fare questa domanda per concludere. Sì, il paese a condizioni di sì, però, affrontare i problemi molto importanti. Arena, mi sente, devo farle questa domanda che ho 30 sì. secondi e devo chiudere. Lei, sì, al giudizio di tutto questo, come definisce questa decisione del ministro dell'interno? Cioè, hanno preso un abbaglio, il prefetto ha fatto una relazione di 200 e rotte pagine in cui ci sono scritte tante robe che non stanno in cielo? Assolutamente no. La relazione, se lei l'ha letta, io la leggerò, probabilmente emergerà che ci sono continuità mafiose nell'apparato burocratico e nella politica. Questo è un dato oggettivo di fatto su cui bisogna fare i conti, quindi non è questo il discorso, assolutamente. Io dico che però imputare ad una giunta che ha operato 6 mesi, io sono stato eletto nel maggio dell'anno scorso, cioè ce l'ha col predecessore Scopelliti, è stata disposta a gennaio e quindi hanno fatto la fotografia di 6 mesi. Pensare che il fenomeno della mafia si sia sviluppato nella mia città in 6 mesi e che io vengo imputato sì, sì. di non aver fatto quelle azioni per poter contrastare il fenomeno. Lei dice questo, i 6 mesi è assolutamente paradossale. No, ma su questo ha ragione e le posso dare ragione, ma devo chiudere. Vi ringrazio, ci ritroviamo lunedì mattina.